Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda la borsa, visto che ne monitoriamo in questi giorni con particolare attenzione. Anche oggi un recupero di Milano, devo dire leggermente più robusto rispetto ai recuperi delle altre borse europee, siamo sempre all'1,25%, ma è importante che l'indice è tornato sopra i 16.000 punti, 16.146 punti. Recuperano oggi anche altre banche, ripeto, siamo ancora sotto i livelli precedenti al venerdì nero, ma Pop Milano più 5,11, Banca Mediolanum più 5%, Unicredit più 4,60, Intesa San Paolo più 4,40%, Popolare Emilia Romagna Biper più 3,60%, Banco Popolare più 2,14%. Chi non recupera? UBI oggi perde il 2,30% e Monte dei Paschi lo 0,26%. Dopodiché negativa oggi anche Luxottica del 4,60%, Mediaset del 3,80%, Azimut del 2,30%. Parleremo però di Unicredit, perché è arrivato, come sapete, il nome del nuovo amministratore delegato e quindi Jean-Pierre Mustier è il nuovo amministratore delegato. Faccio notare che arriva a gestire un gruppo che nell'ultimo anno ha perso il 68% del suo valore, il 70% del suo valore in borsa. Il raffronto lo facciamo ovviamente con Intesa San Paolo, che è un gruppo concorrente per dimensioni e posizionamento sul mercato e mercati. Intesa ha perso il 48%, quindi il 20% in meno. Abbiamo già commentato in maniera negativa le modalità di questo avvicendamento, perché lasciare la banca senza un nome per un mese dopo che hai chiesto e ottenuto le dimissioni di Ghizzoni, ma non avevi il nome pronto, è un qualcosa che nessun gruppo bancario, men che meno un gruppo della dimensione di Unicredit, può permettersi. Ma adesso è arrivato il nome nuovo, il CDA lo ha votato all'unanimità e le dimissioni di Ghizzoni sono dello scorso 24 maggio, quindi ci hanno messo un pochino anche più di un mese, e l'accelerazione sul nome era stata chiesta la settimana scorsa anche dal ministro dell'economia Padoan. Lui ha 55 anni, ha iniziato la sua carriera in Société Générale e era responsabile del Corporate Investment Banking, anche nel periodo dell'incidente del famoso trader Jérôme Kerviel, che aveva causato al gruppo una perdita di 5 miliardi di euro. Poi è passato in Unicredit nel 2011, dove è rimasto come vice direttore generale e responsabile del Corporate Investment Banking fino al 2014. L'anno scorso era andato al fondo Tikehau Capital e adesso invece torna al vertice di Unicredit. Per la precisione sarà il 12 luglio, il giorno dell'avvicendamento, in cui Ghizzoni si dimetterà e lascerà il posto a Mustier, perché Ghizzoni è rimasto ad interim a gestire la parte, diciamo, ordinaria della banca. E adesso vedremo quali sfide attendono anche Mustier. Parleremo di questo, parleremo dell'ILVA, perché oggi a sorpresa, tra virgolette, sono arrivate tre cordate, non due, presentate alle 12 quando scadeva il termine. Le hanno presentate ai commissari straordinari dell'ILVA per partecipare appunto all'acquisizione, anche se in forma di affitto, dei complessi aziendali. Quindi accanto ad Acciai Italia, che vede uniti Arvedi, Cassa Depositi e Prestiti e Del Vecchio, e l'altra offerta che era ArcelorMittal e Marcegaglia, quindi il colosso indiano assieme al gruppo Marcegaglia, ci sarebbe anche un terzo soggetto che finora è rimasto nell'ombra, anche perché i turchi di Erdemir si erano ritirati. E parleremo però anche di quello che è stato ieri l'analisi e anche oggi del Fondo Monetario Internazionale sulle banche tedesche, nel giorno in cui Deutsche Bank e la banca spagnola Santander non hanno superato gli stress test effettuati dalla banca centrale americana, la Federal Reserve, rimandata a Morgan Stanley con un via libera condizionato. Vengono evidenziate gravi diffuse debolezze in Deutsche Bank e nella spagnola Santander. Sulle banche e le assicurazioni tedesche arriva anche appunto l'avvertimento del Fondo Monetario Internazionale, che scrive: il sistema è forte e ben capitalizzato, ma il modello di business è vulnerabile ai tassi bassi. E qui magari capiamo perché la Germania fosse così scettica o abbia posto così tante resistenze per le operazioni di Draghi con i tassi bassi. Insomma, ognuno porta acqua al suo mulino, e la Germania difendeva anche il suo sistema di banche. Sono soprattutto le casse di risparmio, le banche cooperative, le sparcasse già salvate nel 2013 con operazioni miliardarie, 230 miliardi che la Merkel stanziò per salvare le banche tedesche, la stragrande maggioranza è finita proprio nelle piccole casse locali, le sparcasse tedesche, abbastanza opache, non lo diciamo noi, lo dicono gli analisti del Fondo Monetario Internazionale, e le compagnie assicurative, quelle che offrono rendimenti in Germania a tasso fisso garantito dal 3-4%, rendimenti difficilmente ottenibili in una politica di tassi bassi. E ancora, tra l'altro, lo stesso Fondo Monetario dice: attenzione, la Germania, che è campione della ricetta delle riforme strutturali all'interno dell'Unione Europea, ha bisogno di applicare una forte dose della stessa medicina in casa propria. Lo dice il Fondo Monetario Internazionale. Lo so già che uno dirà: ecco Barisoni, l'antitedesco. No, la Germania, il Fondo Monetario dice che la Germania deve applicare a se stessa la stessa medicina che propina a tutti i paesi dell'Unione Europea, cioè le riforme strutturali, dove investimenti nei trasporti e nelle telecomunicazioni, maggior concorrenza nei servizi e affrontare urgentemente il problema dell'invecchiamento della popolazione. E di questo parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 è il numero, come sempre, per i vostri sms e per WhatsApp. Sul fatto che oggi, partiamo come sempre con i 100 secondi, oggi c'è un dato in Italia, il dato buono riguarda l'asta dei BTP, perché i BTP a 5 anni hanno toccato il nuovo minimo storico, abbiamo segnato oggi in asta anche i BTP a 10 anni, ma il nuovo minimo storico si è toccato sui BTP a 5 anni, scesi dallo 0,40 allo 0,33%. Il decennale è calato come rendimento dall'1,42 all'1,35%. Questo dimostra che, grazie anche alle politiche di Mario Draghi, non c'è un problema a reperire finanziatori per il nostro debito in questo momento, tant'è che i tassi che dobbiamo offrire scendono, non salgono. Però la notizia non buona riguarda la deflazione. Quinto mese consecutivo di deflazione a giugno, i prezzi hanno fatto meno 0,4%, sale leggermente invece l'indice dei prezzi al carrello cosiddetti, quindi i beni a maggiore consumo, dello 0,1%, sale anche il potere d'acquisto delle famiglie, più 2,3% rispetto a un anno prima, come effetto soprattutto della deflazione. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Con gli echi della Brexit che continuano ad appassionare e a preoccupare, sia per l'instabilità che abbiamo visto sui mercati finanziari, sia per il rischio contagio di un possibile rallentamento dell'economia britannica, oggi arrivano dall'Istat alcuni dati che certamente con Brexit non hanno nulla a che fare, ma che in qualche modo rilanciano e rafforzano i timori sull'andamento dell'economia italiana ed europea. Il nemico questa volta si chiama inflazione, o meglio deflazione, un nemico contro il quale, oltre all'Italia, stanno combattendo anche molti altri paesi europei. Per il quinto mese consecutivo, dice oggi l'Istat, il nostro paese è in deflazione. A giugno il livello dei prezzi su base annua non solo è negativo dello 0,4%, ma è anche in calo rispetto allo 0,3% del mese di maggio. Peraltro a giugno l'indice dei prezzi al consumo registra invece un lieve aumento dello 0,1%. Ecco, ma perché si rafforzano, anche se solo lievemente, le dinamiche deflazionistiche? Il nodo sta ancora nella diminuzione dei prezzi dei beni energetici. Si pensi che sono diminuiti del 7,5% rispetto al giugno 2015, e se non si considerassero questi beni, l'inflazione sarebbe positiva per uno 0,4%, un livello che in ogni caso sarebbe ben lontano da quel 2% indicato dalla Banca Centrale Europea come il livello ottimale per consentire alle economie europee di trovare con maggior decisione la via di una crescita del PIL più solida e più duratura, e aggiungiamo noi, Brexit permettendo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, giustamente un ascoltatore mi fa notare che la Germania a suo tempo accettò il fiscal compact e il quantitative easing di Draghi, quindi lo stampaggio di euro da parte di Draghi, a patto che fosse il fiscal compact. Sì, è vero, ma le situazioni cambiano, eravamo in un altro mondo, e non capire che in questo momento la situazione è radicalmente cambiata, e finché non cala questa incertezza sulla tenuta dell'Europa, il fiscal compact è un tentativo di suicidio di economie che lentamente stanno cercando di ripartire. Vabbè, allora possiamo anche applicare categorie precedenti al 2008. Comunque, andiamo avanti con le notizie di oggi. Per quello che riguarda il petrolio, sempre poco mosso, 48 verso 2%, 48 dollari al barile. Parleremo poi del Fondo Monetario, che ha chiesto anche di rafforzare le banche dell'Unione Europea. Occorre risolvere il nodo dei crediti deteriorati, quindi in particolare anche in Italia delle sofferenze bancarie. E ha però fatto un complimento, dei plausi alle banche centrali del mondo, a partire da quella europea, per il modo in cui hanno reagito alla Brexit, e hanno dimostrato di essere pronte a reagire se serve. Dacci oggi la nostra Brexit quotidiana, c'è già l'appuntamento del Sole 24 Ore come ogni giorno, anche domani, e anche a Radio 24 nei GR 7, 8 e 13, Brexit, l'estate dell'incertezza. Oggi, al di là del caso clamoroso di Boris Johnson, ma non è oggetto di questa trasmissione, il quale dice no, non mi candido a fare leader conservatorio, aumentando il casino totale nella politica britannica, con un Corbyn sfiduciato che non vuole dimettersi, quindi laborista, Cameron che si è dimesso ma aspetta il congresso a ottobre, e Johnson che non si candida pur avendo ricevuto un investimento plebiscitario, si può dire in questo caso. E insomma, l'italianizzazione della politica britannica è sotto gli occhi di tutti, dai. Anzi, stavolta l'Italia forse ha una maggior chiarezza nello spettro politico di quanto non abbia la Gran Bretagna. Questo lo possiamo dire tranquillamente, al di là di ogni giudizio che uno può fare sui partiti italiani. Andiamo avanti con la Brexit. Dicevo, oggi sostanzialmente il portavoce della Commissione Europea, Margaret Skinner, ha detto insomma non possiamo trattare il referendum in Gran Bretagna come fosse un non evento. Il popolo britannico ha deciso che il Regno Unito dovrà lasciare l'Unione Europea, ora aspettiamo la notifica formale. E sempre la portavoce della Commissione Europea dice: l'articolo 50 è l'unico modo per avviare il processo di uscita della Gran Bretagna, e solo il governo britannico può notificarlo. Cioè, questo lo chiarisco anche a chi scrive, è Londra che deve ricorrere all'articolo 50 e notificare il fatto che esce dall'Unione Europea, non può farlo l'Unione Europea. E ancora, Gran Britalia, bravo, non è male la battuta, Gran Britalia sul fronte politico. Ancora Secondo il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, la priorità immediata è calmare i mercati e ristabilire la fiducia. Non vi sarà nessun allargamento dell'area euro almeno nei prossimi 3 anni. E ancora alla fine addirittura il presidente del Fondo Salva Stati Klaus Regling ha espresso dubbi sulla reale uscita della Gran Bretagna. Dice: vediamo se la Gran Bretagna uscirà davvero, si è all'inizio di un lungo processo, molto può ancora accadere, bisogna vedere se poi la Brexit si farà davvero. E sempre in tema di Brexit, oggi ci sono stati, noi lo affrontiamo anche, inizieremo a affrontarla anche dal punto di vista economico, vedremo se la sterlina continuerà a stabilizzare questa sua debolezza, che è chiaro che potrebbe mettere in difficoltà le nostre esportazioni verso un mercato importantissimo per vari settori, a partire dall'agroalimentare e vitivinicolo, che è il mercato britannico. Oggi la Coldiretti, che era riunita a Verona per protestare contro l'embargo russo che dura da 2 anni e colpisce in particolar modo le esportazioni italiane e soprattutto quelle nel settore agroalimentare, ortofrutta, formaggi, carni e salumi, decine di migliaia di aziende messe in crisi, ma il responsabile economico da Coldiretti, Lorenzo Bazzana, ha ricordato i danni per l'export russo, ma anche i rischi sulla Brexit, e quindi il rischio che vi possa essere un danno anche sulle esportazioni in Gran Bretagna. Sono più di 600 milioni di perdita di fatturato che noi abbiamo registrato. Teniamo presente che gli imprenditori italiani avevano investito molto sul mercato russo, anche in considerazione del fatto che c'è un forte flusso di turisti che provengono da quel paese, che poi quando tornano in patria vogliono ritrovare quei prodotti italiani che hanno apprezzato e gradito nel periodo che hanno trascorso in Italia. E oltretutto c'è forse il timore che a questo embargo si aggiunga l'effetto Brexit. Sì, c'è anche la preoccupazione per un effetto Brexit. Sappiamo che in Gran Bretagna appunto i nostri prodotti vengono commercializzati in euro, quindi significa che il consumatore della Gran Bretagna costerà di più, costa già di più adesso acquistare i prodotti italiani, i prodotti del Made in Italy ed importarli. Così appunto Lorenzo Bazzana al microfono di Enza Loddo. Ancora invece vorrei, prima di partire con il lungo tema delle banche, mentre oggi Atlante, come avevamo ampiamente previsto, il fondo Atlante, dopo essere diventato l'unico praticamente azionista della Popolare di Vicenza, è quasi l'unico azionista anche di Veneto Banca, ha acquistato tutte le azioni inoptate, il 97,6%, sborsando praticamente quasi 1 miliardo di euro, un poco di meno. Atlante appunto avrà il controllo, il patrimonio in linea con quanto richiesto dalla Banca Centrale Europea, comunicano dal fondo Atlante. Ma dicevo, prima di arrivare alle notizie di banca, Unicredit, banche tedesche, tensioni sui mercati e quant'altro, una notizia importante ma un po' più leggera, se vogliamo. Sabato alle 21, è inutile che vi spieghi cosa capita, e chi non lo sa, vuol dire, chi non lo sa, vabbè, non lo sa, c'è la partita dell'Italia con la Germania. Ora è chiaro che con quello che dico io della Germania non la penso come chi in maniera un po' improvvida ha detto, chi era, Travaglio, no? Che non ti farà Italia, ma perché fare sempre i bastian contrari, che palle. Comunque c'è tutto un cotè anche economico sulla vittoria della nazionale. E il nostro Dario Ricci, che è inviato e segue la nazionale questi europei, ha raggiunto ieri il numero uno, il direttore generale della Federcalcio, Michele Uva, proprio sull'entusiasmo verso la maglia azzurra e quello che poi può dire anche per la federazione stessa. Ascoltiamolo, così respiriamo e poi partiamo subito con Unicredit. È molto bello vedere l'entusiasmo dei tifosi, sentirlo, non solo quelli che vivono in Italia, ma anche quelli che vivono nel mondo, che sono ancora più orgogliosi di quello che la federazione sta facendo, la squadra sta facendo. È un lavoro di gruppo, è partito tanto tempo fa, è stato sicuramente importante arrivare, i risultati sono frutto di un grosso lavoro tecnico, anche organizzativo. La passione per la maglia azzurra è qualcosa che unisce gli italiani e questo ci auguriamo che sia un messaggio che vada anche oltre il calcio e lo sport. passione, ma anche numeri importanti intorno a questa maglia azzurra. Siamo qui a Casa Azzurri, ecco, ad esempio, che numeri movimenta in termini di sponsorizzazioni, tutta l'organizzazione che ruota intorno a questa maglia? Beh, l'organizzazione che ruota intorno alla maglia è fatta da 230 dipendenti e 400 e più altri 200 tecnici che lavorano quotidianamente per la federazione. È un risultato di tutti e chiaramente sta coinvolgendo anche sponsor importanti che sono entrati nel panel dei nostri partner, e lo stanno vivendo tutti con grande entusiasmo. Ho detto da sempre, siamo passati dalla sponsorship alla partnership, perché l'affascinante è lavorare con ogni singolo partner, con loro, per costruire un prodotto interessante. Dicevamo punto di partenza da questo europeo, che mi permetta di dire ancora prima della sfida con la Germania ha già un peso specifico positivo. Come si può partire in questo senso per valorizzare ancora di più la maglia della nazionale? È il nostro obiettivo dei prossimi mesi. Adesso siamo arrivati a un punto, da un punto di vista sportivo, a un quarto di finale contro i campioni del mondo della Germania. Penso che abbiamo dimostrato non solo capacità tecniche ma anche capacità organizzativi, gestionali. Sicuramente un buon punto di partenza per incrementare quello che è il valore del nostro brand, coinvolgere tutti gli italiani appassionati d'Italia in giro per il mondo, perché sono tanti. Pensate che le maglie vendute negli Stati Uniti sono superiori a quelle vendute in Italia, quindi vuol dire che abbiamo un seguito importante. La capitalizzazione di quello che abbiamo fatto in questi 2 anni penso che sia il nuovo obiettivo. Allora andiamo su temi meno leggeri. Non è che sia leggero quello che capita sabato, io sono già in tensione. Uno mi scrive: ma uno sarà libero di tifare chi vuole o no? Se andate fuori stavolta è sicuro che è colpa dei tedeschi, forza Islanda. Ma se lei parla dandoci come se non fosse italiano, però scrive bene, devo dire. Forza Islanda, vabbè, forza Islanda. E tifi Islanda. Allora, battute le lascio stare. Andiamo sulla nomina finalmente arrivata dopo un mese e passa, dal 24 maggio di quest'anno, chiaramente, quando fu annunciata la fine del rapporto con Federico Ghizzoni da parte del gruppo Unicredit. Gli fu chiesto di restare per il periodo di transizione finché non sarebbe arrivato il nuovo numero uno. Tutti immaginavano però a quel punto che se vai fuori l'amministratore delegato del principale gruppo bancario italiano assieme a Intesa San Paolo e uno dei principali a livello europeo, tu avessi già pronto il nome. Invece non solo il nome non era pronto, arrivammo anche a un elemento abbastanza ironico, se non fosse stato tragico, cioè il presidente Vita che dice: abbiamo messo in mano la ricerca Egon Zehnder, entro un mese ci darà la risposta. Manco si trattasse di trovare così il responsabile marketing di un'azienda minore. Ecco, di solito queste cose si fanno: prima si sa il nome e poi si dice grazie Ghizzoni, arrivederci. Quindi già il pasticcio è stato fatto, ma non lo diciamo noi, lo stesso ministro Padoan lo disse, e ci fu anche la dichiarazione di ieri, se non ricordo male, di Renzi all'uscita dal vertice di Bruxelles. Insomma, i soci sapranno che serve una guida solida, non tocca a noi decidere. Insomma, il messaggio è abbastanza chiaro. Bisogna vincere questa filosofia per cui chi fa interventi sul sistema del credito fa un piacere alle banche. Io voglio fare l'interesse dei correntisti, dei cittadini. E naturalmente ci sono i banchieri bravi e i banchieri colpevoli. Questo è evidente, è banale. Poi abbiamo fatto la riforma delle banche di credito cooperativo, che era un altro tema ampiamente atteso. Naturalmente non tocca mica a me decidere chi fa l'amministratore delegato di Unicredit. Decideranno. È una grande banca, i soci credo che abbiano consapevolezza del fatto che una grande banca come Unicredit ha bisogno di una guida stabile e solida. Mi pare di poterlo dire senza aver detto cose particolarmente market sensitive. Mi sembra di aver detto una cosa abbastanza banale. Ne prendiamo atto. Ma invece non banale il nuovo, è il nome del nuovo amministratore delegato di Unicredit, Luca Davide, Sole 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, lui non è nuovo come amministratore delegato ovviamente, ma ha passato molti anni in Unicredit, nel 2011 fino al 2014, dove era vice direttore generale responsabile Corporate Investment Banking. Facciamo una cosa, Luca, ancora un minuto di pazienza, ho il metodo, la pubblicità, poi, da questo punto di vista vediamo anche di capire le sfide che ha, oltre che il percorso da cui viene. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Altri mi scrivono, anche noi ti faremo Germania, ho capito, vabbè. Invece contesto, questo posso metterci la mano sul fuoco, Oscar Giannino non ti farà Germania calcisticamente, poi ti farà Italia. Meteo. Focus Economia. Just hoping the money, money, money, money, money. You love me, honey. I just hoping the money, money, money, money, money. You love me, honey. You got me singing Georgia. Oh, di nuovo in diretta. Adesso sorrido perché prima di parlare, scusatemi, di Unicredit, mi ha scritto un ascoltatore su WhatsApp una cosa molto interessante, che bisogna tifare Islanda contro la Francia. Vabbè, ovvio che bisogna tifare Islanda contro la Francia, dai, su. Però anche per un motivo che io non sapevo, adesso controlliamo, ma immagino che sia vero, che lo sponsor tecnico che fa le magliette agli islandesi è di Parma. Andiamo a controllare in regia, per favore. E addirittura non riescono a soddisfare tutte le richieste piovute dopo il successo con l'Inghilterra, quindi uno ha un motivo in più per tifare Islanda, ossia il fatto che aiuta anche in maniera molto molto marginale un'azienda parmense che è lo sponsor tecnico delle magliette. Verifichiamo se è vero, la notizia non è male comunque. Allora, tifiamo Francia. La battuta non era prevista, insomma, tifiamo Francia per Unicredit invece, perché Jean-Paul Moustier è francese, ci sono pochi dubbi. Il suo percorso, con anche quella cosa che molti oggi hanno messo in evidenza, lui era il capo del mitico Jérôme Kerviel, quello che fece perdere 5 miliardi alla BNP Paribas, alla Société Générale, e gli diedero tutta la colpa. Noi a suo tempo dicemmo, mamma mia, tutta la colpa a un povero trader. Però insomma, la carriera di Moustier e il rapporto con Unicredit. È arrivato nella notte, perché di fatto tra ieri sera e questa mattina si è arrivati alla definizione del nuovo CEO, del nuovo amministratore delegato di Unicredit, che ha in mano davvero diversi dossier caldi. È in realtà una svolta, si attendeva, è arrivata una mezza svolta, perché appunto è una vecchia conoscenza, è stato capo dell'investment banking di Unicredit. E a lui toccheranno diverse sfide. Dovrà gestirsi una banca che in questo momento viaggia su un livello di solidità patrimoniale che ovviamente deve essere puntellato. Si parla da tempo di una serie di rafforzamento patrimoniale elevato, si parla sul mercato tra i 5, 7, anche 8 miliardi di aumento. Come questi miliardi potranno arrivare nelle casse di Unicredit? Si tratta di capirlo. Ci dovrà essere sicuramente un nuovo piano industriale che Moustier dovrà mettere in pista. Ci sarà probabilmente una nuova riorganizzazione, una revisione del perimetro aziendale. Si parla di cessioni, si parla di quindi una ridefinizione del perimetro aziendale. Certo è che sicuramente questa nomina, che è arrivata 40 giorni dopo in realtà l'uscita di Ghizzoni, è costata tanto, tanto tempo e probabilmente anche diversi malumori internamente alla compagine dei soci. Diversi malumori che sono arrivati dai soci italiani. Va anche detto che poi alla fine, di fronte alla necessità insomma di trovare una guida, poi si è trovata una ricomposizione. Questa mattina infatti dentro al consiglio di amministrazione della banca si è arrivata alla scelta e alla nomina di Moustier all'unanimità. Questo segnala comunque una condivisione di intenti. Perché? Perché questa, che è la più grande banca italiana, che è l'unica banca italiana ad essere di rilevanza europea sistemica, beh, insomma, deve essere in qualche modo gestita e bisogna trovare l'accordo fra tutti i soci. Allora, a proposito di banche, c'è una notizia flash importantissima, tra l'altro la fonte è il Wall Street Journal, perché scrive come domenica la Commissione Europea avrebbe dato il via libera a un piano di sostegno pubblico alle banche italiane, quindi piano di sostegno pubblico alle banche italiane da attivarsi da parte del governo italiano se necessario, per fronteggiare eventuali turbolenze dei mercati. Emergerebbe in una nota della Commissione, si tratta di una garanzia statale su 150 miliardi di liquidità per creare un programma preventivo di supporto alle banche, da attivare nel solo 2016 e per gli istituti solvibili, un programma che rispetterebbe le regole sugli aiuti di Stato in situazioni eccezionali. Ora è un po' presto, poi ne parleremo con Alessandro Graziani, ma a me sembra molto simile a quanto chiedeva il governo italiano, cioè considerare, e chiedeva banalmente anche il Sole 24 Ore, questo gruppo editoriale, considerare eccezionale la situazione che si è generata dopo la Brexit, così come una guerra, cioè, sono previste dai trattati europei le situazioni eccezionali, e quindi a fronte di situazioni eccezionali permettere per un periodo limitato, infatti qui si legge solo nel 2016, vuol dire che abbiamo sei mesi, di dare garanzie, non è l'ingresso dello Stato nel capitale delle banche, prima che iniziate alcuni di voi a scrivermi, è la garanzia che tu dai su un'operazione che c'è dietro lo Stato, non è detto che ci entri. Guardate che sulla vicenda Monte dei Paschi continuo a leggere una marea di cavolate, lo Stato ci ha guadagnato al 7% di rendimento ad interesse, gli ha prestati i soldi al Monte dei Paschi, per cui non diciamo cavolate solo per motivi politici. Nell'unica operazione in cui lo Stato è entrato in maniera netta in una banca italiana con il prestito ha chiesto il 7% di interessi, quindi qui si tratta di garanzie, ma sarebbe fondamentale, e infatti perché permetterebbe, sarebbe diciamo l'escamotage per arrivare a un insieme di impacchettamento delle sofferenze, collocandole sul mercato con una garanzia di Stato fino a 150 miliardi. Certo, sugli istituti solvibili, però insomma molti di quelli che hanno problemi con le sofferenze bancarie sono strasolvibili. Luca? Secondo me, allora, si tratta di capire bene esattamente quale forma prenderà poi questa garanzia. C'è sicuramente un dato di fatto, cioè il governo è riuscito sostanzialmente a ottenere quella rete di protezione, quella rete di salvataggio che in qualche modo azzera quelli che sono i rischi potenziali che il mercato inizia a percepire. Sostanzialmente si è visto quello che è successo nel corso delle ultime sedute in borsa, il mercato iniziava a scontare davvero una fragilità tale del sistema bancario che forse avrebbe potuto anche provocare una corsa, diciamo così, ipotetica agli sportelli. Bene, tutto questo non esiste, non c'è. In questo senso la scelta della Commissione europea, ovviamente supportata dal governo, la richiesta del governo, è stata sicuramente esemplificativa. Diciamo che la sensazione, ma adesso cercheremo di capire meglio, ma la sensazione è che in questa maniera, stiamo parlando di 150 miliardi di garanzia, vuol dire circa il 10% del PIL. Stiamo parlando di davvero di una scialuppa di salvataggio gigantesca che, eliminando diciamo la coda diciamo del rischio, e che si concentra in particolare sui come dicevamo e come a quanto pare sta emergendo soprattutto sugli istituti solvibili, che sono quelli che di fatto non hanno nulla a che rischiare, a che vedere diciamo con le banche in difficoltà. Il mercato da questo, e già si è vista la prima reazione in borsa, trarrà ovviamente un grande beneficio, perché di fatto cancella qualsiasi potenziale diciamo alibi per andare diciamo contro il sistema bancario italiano. Su questo già è un primo elemento. L'altro elemento su cui si tratterà di capire esattamente la forma con cui prenderà questo piano è capire se queste garanzie, che presumibilmente potranno essere messe a disposizione, mi viene da ipotizzare, da Cassa Depositi e Prestiti, ma vedremo quale sarà la modalità, possano essere utilizzate per alleggerire, come dicevi giustamente te, il grande pacchetto, il grande male delle banche italiane, che è quello delle sofferenze. Qualora arrivasse una garanzia, certo. Allora forse davvero tanto adesso è più difficile. Difficile speculare, lo dico, poi domani verrò magari smentito, ma è più difficile speculare sulle banche italiane, perché se la Commissione autorizza un fondo di garanzia da 150 miliardi, speculare sul crollo, diciamo, o su difficoltà estreme di tasselli importanti del sistema bancario italiano diventa un rischio di prendersi una musata come un boomerang, come si prese chi continua a speculare sull'euro dopo Draghi, dopo le famose parole di Draghi. Allora, mentre sta arrivando un'altra notizia, questa riguarda la Bank of England, Mark Carney ha evocato il governatore, che è canadese se non ricordo male, ha evocato un possibile taglio di tassi di interesse in Gran Bretagna, parlando di un qualche allentamento della politica monetaria entro l'estate. Quindi la Gran Bretagna, che era l'economia più solida, aveva ripreso a rialzare i tassi, adesso complice la Brexit, anzi a causa della Brexit, sta pensando di tagliare i tassi di interesse. Andiamo un attimo sul traffico, Nel frattempo unisco sacro, se così vogliamo dire, e profano, poi uno decide se il sacro sono gli aiuti alle banche e il profano la nazionale o viceversa, perché abbiamo verificato la società di Parma che produce le magliette per l'Islanda, si chiama Errea, e ha un sovraccarico di richieste, non riesce a esaurire tutte le richieste che stanno arrivando, la maglia islandese e moltissime richieste di avere la maglia islandese stanno arrivando dalla Scozia. Beh, bellissima, questa è bellissima, vai traffico. Focus Economia. Oh, allora, torniamo a parlare di Unicredit, di banche e poi la borsa. Devo dire che tutte le contestazioni che ho avuto in questi anni, c'è uno che mi chiama rinnegato, Marco da Vicenza, perché sono un veneto rinnegato, e fin lì, vabbè, rinnegato da cosa non so, ma adesso mi scrive pure, lei continua con le canzoni di M, dei negri, allora vai con Giorgio, vai. E adesso non la levo più però, caro Marco, se facciamo così non la levo più. Facciamo solo black music, black soul, da qua fino alla fine del 2016. Tanto sono già rinnegato, da che cosa non lo so. Dai Mona. Allora, Luca Davi, andiamo avanti, le sfide sull'Unicredit. Diciamo che davanti al tavolo del nuovo amministratore delegato di Unicredit si aprono diversi dossier. Un rilancio che, dicevamo, potrebbe e dovrà arrivare necessariamente attraverso un aumento di capitale che la maggioranza degli analisti, per non dire la totalità degli analisti, considera di fatto ineluttabile. Insieme a questo aumento di capitale, però, con tutta probabilità, il nuovo settore delegato dovrà anche proporre un nuovo piano industriale, una rivisitazione. Ecco, ma l'aumento di capitale, insomma, non è un gran periodo per aumenti di capitale. Non è un gran periodo, non lo è sicuramente in questa fase. Vedremo adesso gli effetti, magari i benefici, diciamo, di questa rete di salvataggio che magari il governo ha, e vedremo appunto se confermato, metterà in atto. Sicuramente la fiducia è ai minimi, così come l'andamento dei titoli azionari bancari. C'è una fiducia da recuperare. Non va dimenticato che Mustier, e probabilmente questo spiega almeno parte della scelta della sua nomina, Mustier ha un passato da banchiere di investimento, sì, capo dell'investment banking di Unicredit, ha un passato in Societe Generale, ha un passato da investitore, da capo di un fondo di investimento, ha sicuramente un network di rapporti e conoscenze che potrebbe quantomeno aiutarle. Ma è vero che è più forte, diciamo, sulla parte di investment banking che retail? Allora, Unicredit è una banca che fa anche la parte di investment banking, ma anche e soprattutto una banca da sportello. Sicuramente, e in questo senso il curriculum parla da sé, e probabilmente c'erano altri candidati che forse erano più proiettati su quel tipo di attività operativa industriale. In questo momento probabilmente c'è l'urgenza di mettere in piedi e avviare un piano industriale basato, strutturato su un rafforzamento patrimoniale. Questa probabilmente è la prima urgenza che la banca dovrà risolvere, e su questo diciamo che c'è già un primo passo che è chiaro. Ci sarà poi probabilmente da iniziare a guardare una possibile piano di cessioni. Si parla di diverse attività, dalle banche ovviamente est europee, ci sono attività anche italiane che funzionano molto bene e sulle quali magari si potrebbe concentrare l'attenzione. Probabilmente tutto dovrà rientrare in un grande calderone sul quale è presumibile che il nuovo amministratore delegato di Unicredit si metterà già da subito a ragionare. E allora in bocca al lupo comunque, e vedremo, poi lo valuteremo come sempre sui fatti. Grazie a Luca Davi. Grazie a voi. Per Marco da Vicenza. I just hope in the money, money, money, money, money. You love me, honey. I just hope in the money, money, money, money, money. You love me, honey. You got me singing Georgia. Allora, no, a me questa cosa, domani la invitiamo, è il numero uno di Errea di Parma. Allora, pensate che, no, sto leggendo le cose interessantissime sul boom di richieste, confermo che arrivano soprattutto dalla Scozia. Prezzo di 79 euro, sold out fino al 2 luglio, tutte le maglie ufficiali della nazionale islandese, le t-shirt e la polo disponibili per 29,90 euro e 39,90 euro, sono ancora pochissimi capi disponibili. No, la cosa che mi fa impazzire è che l'Islanda, che ha uno stadio che può ospitare 9.800 persone, beh, sono 300.000 abitanti, oddio, poco anche per essere 300.000 abitanti, insomma. Gli stadi di casa nostra con una popolazione del genere vanno sui 40-50 mila almeno, 30.000 islandesi, uno su 10 è in Francia in questo momento per seguire la partita. E beh, lo share della partita con l'Inghilterra è stato del 99%. Solo 600 islandesi non hanno visto la partita. Boh, forse erano al cesso, non lo so. E l'onore Micheli, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, la notizia che abbiamo dato pochi minuti fa è che questo flash del Wall Street Journal per cui la Commissione Europea avrebbe dato via libera a un... dove cavolo è finita? Eccola qui. A garanzie pubbliche per il supporto delle banche in Italia per tutto il 2016 fino a 150 miliardi è arrivata, diciamo, a influenzare anche i titoli bancari? Sì. Perché abbiamo visto un rialzo un po' più forte nel finale, prego. Sì, flash che ha dato oltre Wall Street Journal anche Radio Core. Radio Core, hai ragione, chiedo venia. Comunque, detto questo, ovviamente si è impattato, le banche sono infatti subito schizzate al rialzo, anche se poi ad esempio Monte dei Paschi e UBI sono di nuovo ripiombate in terreno negativo, confermando peraltro una seduta di alta volatilità. Comunque ovviamente una notizia positiva in quanto consente un intervento in termini di liquidità alle banche, ma ricordiamo solamente a quelle solventi. Fatto sta che il settore ha virato al rialzo e molte banche hanno allungato il passo. E comunque ad esempio anche MPS ha chiuso in calo del 2,44%, ma prima della notizia perdeva oltre il 4%, stessa cosa per UBI che ha chiuso in calo dell'1%, ma era in ribasso del 4,5%. Unicredit poi ha chiuso più 2,28%, avete già detto che quest'oggi è stata sotto i riflettori per la nomina del nuovo amministratore delegato, sì. Ma hanno virato al rialzo anche Biper più 2,76 e BPM più 2,31%, Intesa San Paolo è stata la migliore più 3,28. Allora ancora su i titoli, poi invece abbiamo visto dei realizzi su Luxottica, realizzi anche vendita, non solo realizzi, meno 4,40%, Mediaset meno 3,30%, Prismian invece è un titolo chiaramente non bancario che si è mosso molto bene. Sì, Prismian quest'oggi è stata sotto riflettori. È migliore, è 6,45% di rialzo. Sì, sin dalle prime battute si è messa in evidenza, visto che dovrebbe arrivare l'ok da parte dell'Europa al piano per la banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato. Si tratta ovviamente di un piano governativo da diversi miliardi di euro e Prismian, ricordiamo, dovrebbe giocare un ruolo chiave dal momento che è l'unico operatore che costruisce fibra, costruisce tubi. Il mercato ci scommette, certo, ancora bene anche le utilities, come prima dicevamo, A2A più 4,50%, Buzzi Unicem più 5,1%, Hughes Entreporter più 3,5%, ST Microelectronics più 3%, Snam più 2,80%, Ferrari più 2,30%, come Terna, Exor più 2,20%, Enel più 2%, Case New Holland più 2% come Fiat Chrysler e Campari più 1,90%. Per quello che riguarda invece in titoli negativo anche oltre Monte dei Paschi, Azimut meno 2, Unipol meno 1,80, Unipol 6 meno 1,40, Telecom meno 1,30, UbiBanca meno 1%. Miglior titolo in assoluto Bomi Italia più 12%, Bastoggi più 11,20 e Investimento e Sviluppo più 9,80, Coimares più 9,60. Peggior titolo Invest meno 7, Agronomia meno 6%, TAS meno 4,90 e poi Luxottica. Di Luxottica abbiamo detto. Allora, Leonardo Micheli, grazie a te come sempre ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Andiamo adesso sul GR24, poi a chi mi dice volete parlare delle magliette della nazionale islandese per non parlare dell'aiuto alle banche, no, guardi che tutta la prossima mezz'ora parliamo di banche e della notizia arrivata da Radio Core oltre che da Wall Street Journal degli aiuti della possibilità di garanzie di Stato per le banche italiane dopo il GR24. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza, con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia. Naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, adesso, prima di arrivare alla notizia più importante che è arrivata durante la diretta e che appunto stiamo aspettando ancora altre agenzie, ma è confermata, visto che non è arrivata nessuna smentita, e quindi il via libera della Commissione Europea a un piano di sostegno pubblico alle banche italiane da attivarsi da parte del governo se necessario, ma è necessario per fronteggiare eventuali turbolenze dei mercati. Garanzia statale fino a 150 miliardi di liquidità per creare un programma preventivo di supporto alle banche, che però potrà essere attivato nel solo 2016, quindi adesso il problema sarà se bisogna fare questa operazione per garantire il collocamento delle sofferenze, bisogna farla entro dicembre, ma dicembre deve essere già bella che realizzata. Gli istituti ripeto, entro il 2016 è solo per gli istituti solvibili, perché questo rispetterebbe le regole degli aiuti di Stato in situazioni eccezionali già prevista dalla Commissione Europea. Però prima di arrivare a questo, l'ILVA che, non, che ci regala sempre sorprese. Eravamo convinti, lo abbiamo detto ieri, che fossero due le offerte. Eccola, ecco, nuova sorpresa. Meno me stavo dicendo, poi abbiamo saputo che erano tre. Adesso un flash d'agenzia dice: no, sono solo due le cordate ammesse alla gara per acquisire l'ILVA. Lo hanno comunicato i commissari straordinari, quindi Piero Gnudi, Enrico Laghi e Corrado Carrubba, e quindi le due cordate sono a questo punto AM Invesco Italy, quindi il gruppo ArcelorMittal, il colosso indiano ArcelorMittal e Marcegaglia, e l'altra cordata invece Acciaia Italia, con dentro il gruppo Arvedi, la Delfin del Vecchio e la Cassa Depositi e Prestiti in CDP Equity. Domenico Palmiotti, proprio pochi istanti prima di collegarti abbiamo avuto la conferma, o meglio la nuova smentita rispetto alla conferma di ieri. Ieri ci risultavano due cordate, oggi abbiamo saputo che erano tre, adesso ci dico che sono due. Sono due alla fine? Sì, sono due. L'azienda ha fatto un comunicato ufficiale di pochi minuti fa in cui ammette e annuncia che sono appunto le due cordate che annunciavi tu, quelle in gara per l'acquisizione di tutto il gruppo ILVA, cioè AM Investco Italy, di ArcelorMittal e Marcegaglia, c'è Italia, di CDP, Arvedi e Delfin. La terza cordata è esistita, nel senso che si parla, ma non ci sono conferme, di una società che farebbe capo al gruppo Bolloré o comunque di un suo emissario. È solo che questa cordata, però ecco, sono notizie non ancora confermate, sarebbe stata esclusa per carenza di documentazione. Bisogna dire per completezza che comunque la società di Bolloré è in gara, e lo è ancora, con un'altra azienda per acquisire la flotta navale dell'ILVA, perché oltre all'ILVA vanno sul mercato anche sette aziende partecipate, e una di queste è appunto ILVA Servizi Marittimi. Quindi, da quello che si sapeva, questa società di Bolloré con altri operatori era in gara per questo segmento del gruppo, e poi c'è stata questa, come dire, offerta a più ampio raggio che però è stata esclusa. Adesso abbiamo l'annuncio ufficiale dell'azienda che dice che le cordate sono due e rimangono due. A questo punto i tempi? I tempi. Adesso i commissari comunicheranno al ministro dell'Ambiente Galletti che hanno ricevuto le offerte industriali e ambientali. Il ministro Galletti insedierà un comitato di tre esperti. Questi tre esperti valuteranno il piano ambientale che, in base al decreto legge adesso attualmente all'esame della Camera, sarà dirimente nella valutazione, cioè si valuterà prima il piano ambientale, la congruità dei suoi interventi rispetto alla situazione da affrontare, e poi si valuterà l'offerta economica. Comunicheranno il responso al ministro Galletti ai commissari, e a quel punto, con la proposta che risulterà migliore, risulterà vincente, i commissari negozieranno il contratto definitivo di cessione dell'azienda. E a questo punto però il mantenimento del perimetro occupazionale, come si dice in gergo, cioè sono 12.000 addetti quelli che lavoravano all'ILVA, commissariato dal 2013 ha visto il fatturato precipitare dai 6 miliardi del 2011 a meno di 4 miliardi. Che cosa ci si attende da quello che sarà il nuovo compratore? Beh, cosa si attende? Anzitutto la prima questione è il risanamento ambientale. Il governo l'ha posto come priorità, a maggior ragione la pone Taranto, la pongono i cittadini di Taranto. Poi la tenuta dell'azienda, la sua produzione, la sua sostenibilità appunto con l'ambiente, e poi la difesa dell'occupazione, anche se su questo punto devo dirti che comincia così ad essere acquisita la quasi certezza che probabilmente non riavremo la vecchia Ilva del passato con 8 milioni di tonnellate e con 11.000 addetti. Avremo probabilmente un'Ilva un po' più magra, però ecco, il punto anche qui è capire: sarà una cura dimagrante che può essere accettata e può anche essere sostenuta socialmente a fronte di una ripresa dell'azienda dopo 4 anni di difficoltà, di incertezze, di navigazione a vista, oppure avremo un ridimensionamento drastico? È chiaro che se dovessimo avere un ridimensionamento drastico, questo avrebbe impatti molto molto pesanti. Sì, infatti adesso bisogna capire poi il piano di rilancio. È chiarissimo che un'Ilva sarà più magra, meno inquinante anche, ci auguriamo, ma soprattutto poi quello che sarà il piano di rilancio per quello che è non solo il primo stabilimento siderurgico italiano e tra i primi in Europa, ma forniva il 50% dell'intera produzione del paese, 8 milioni l'anno nei momenti in cui diciamo, operava al massimo regime. E devo dire che la componente, le due cordate, insomma, sì, una la Cassa Depositi e Prestiti, l'altra mi chiedono se sia avvantaggiata quella della Cassa Depositi e Prestiti, ma non mi sembra che ci sia un vantaggio in questa partecipazione. Domenico. Io credo che il giudizio dovrà soltanto venire dalla qualità dei piani ambientali e industriali. Questo è il metro di valutazione fondamentale, non tanto. Certo, il governo ha espresso la preferenza per una soluzione nazionale, e sembrerebbe così ad una prima lettura che ovviamente una cordata tutta nazionale ha maggiori chance, potrebbe avere maggiori chance, però ecco, torno a dire, il metro di valutazione sarà il piano ambientale, il piano industriale, ma soprattutto le capacità di guida che poi sovrintenderanno all'attuazione di questo piano, perché non basta solo presentare un piano ben fatto e rispondente alla necessità, ma bisogna anche mettere in campo una capacità di guida e di direzione dell'azienda che sia all'altezza. Allora, grazie intanto a Domenico Palmiotti, che poi risentiremo quando verrà sciolta verrà chiarito chi delle due prenderà in mano l'Ilva. Adesso andiamo sul traffico e poi invece, alla luce anche della novità intercorso durante la diretta, noi dovevamo parlare dei giudizi del Fondo Monetario sul sistema bancario tedesco e anche sulle banche tedesche, oltre che della decisione della Federal Reserve. Parleremo anche soprattutto di questa notizia, a sto punto confermata, per cui domenica prima del vertice già la Commissione Europea aveva dato il via libera a una forma di aiuti di Stato in situazioni eccezionali, perché è chiaro che se dai una garanzia statale in qualche modo è un aiuto di Stato, ma è prevista dalla Commissione Europea nelle situazioni eccezionali. Dopo il traffico. Focus Economia. Allora, in realtà teniamo assieme le due notizie, perché Deutsche Bank oggi, dopo la bocciatura avuta sia dalla Federal Reserve, perché Deutsche Bank e la spagnola Santander sono le uniche due banche su 33 banche esaminate che non hanno superato gli stress test effettuati dalla Federal Reserve, quindi la banca centrale americana, un'altra banca, Morgan Stanley, è stata rimandata a settembre, come si diceva una volta, quindi via libera condizionato. La Fed ha sottolineato come sia Deutsche Bank che Santander abbiano gravi e diffuse debolezze e che non ci siano stati sostanziali miglioramenti rispetto alla precedente tornata di test del marzo 2015. E poi le banche e le assicurazioni tedesche, scrive il Fondo Monetario Internazionale, sono ben capitalizzate, ma il modello di business è vulnerabile ai tassi bassi. Soprattutto le casse di risparmio, le banche cooperative, le sparcasse, hanno un modello molto tradizionale che dipende dai margini di interesse, principale fonte di utili, sotto pressione in questa fase con i tassi a zero. È ancora più difficile la situazione delle compagnie assicurative, che in Germania hanno garantito polizze a rendimenti molto alti, tra il 3 e il 4%, difficili da ottenere in una stagione di tassi a zero. Poi il fondo ha bocciato la Germania, anche dicendo che la Germania è campione della ricetta delle riforme strutturali all'interno dell'Unione Europea. Ha bisogno però di applicare la stessa ricetta anche a se stessa, in casa propria, e in particolar modo investire nei trasporti, nelle telecomunicazioni, in maggiore concorrenza nei servizi, e deve la Germania affrontare urgentemente il problema dell'invecchiamento della popolazione. Lo dice il Fondo Monetario Internazionale, non il sottoscritto. La bocciatura sia della Federal Reserve che del Fondo Monetario ha affossato oggi Deutsche Bank ai minimi da 30 anni a questa parte, sono scesi fino a 12 euro, poi sono risaliti a 12,32 euro. È la seconda bocciatura consecutiva da parte della Federal Reserve. Pensate che il Fondo Monetario ha definito Deutsche Bank la banca più rischiosa al mondo e fonte di possibile shock per il sistema finanziario. Che sia per questo che magari anche in Germania poi fanno passare, lo dico senza avere nessuna notizia nel merito, fanno passare gli aiuti di Stato, vista la situazione eccezionale, anche all'Italia. Beh. Alessandro Graziani, a pensare male si fa peccato, diceva Andreotti, ma ogni tanto ci si azzecca. Alessandro Graziani del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Per carità, la decisione della Commissione Europea è di domenica, da quello che leggiamo dalle agenzie, però insomma... è ovvio che se lo fai fare all'Italia poi potrai farlo fare anche a altri paesi, no Alessandro? Sì, questo è vero, però la decisione ancora va interpretata, perché come hai detto tu è uscita pochi minuti fa, si parla di un sostegno di liquidità, ma la liquidità già viene garantita ampiamente dalla Banca Centrale Europea, addirittura tassi negativi per le banche, quindi il problema della liquidità, qui si parla di liquidità finalizzata a garanzie e aiuti di Stato, e quindi si tratta di capire al volo, ma diciamo lo stiamo facendo in questi minuti, domani ne daremo ampio risalto sul giornale, se si tratta di garanzie per aumenti di capitale o di garanzie di liquidità, che invece, come abbiamo detto tante volte, la liquidità è anche troppo abbondante sui mercati e anche per le banche. Non arriva poi alle imprese e magari ai clienti. Alessandro, ma non potrebbe servire per le sofferenze bancarie, come garanzia sulle sofferenze? Chiedo. Questa è una ipotesi, però appunto ci dovrebbe essere una totale apertura da parte della Commissione Europea, perché sarebbero aiuti di Stato, e fino a ieri e anche oggi le dichiarazioni di tutti gli esponenti della Commissione era invece no ad aiuti di Stato, quindi è tema importante su cui stiamo approfondendo. Ma poi ci sarebbe anche un giallo nel giallo, vuol dire minore come importanza, nel senso che questa, tutte le agenzie riportano che questa decisione, che vale 150 miliardi e che viene giustificata perché sì, si tratterebbe, sto ripigliando l'agenzia, di aiuti di Stato, ma in una situazione eccezionale, eccola qua, perché un programma preventivo di supporto alle banche da attivare per gli istituti solvibili solo nel 2016, che rispetta le regole sugli aiuti di Stato in situazioni eccezionali, ed è quest'ultima frase che secondo me spiega tutto, cioè le situazioni eccezionali causate dalla Brexit. Dicevo, su questo cercheremo tutti di capire, ovviamente, se riguardi anche una liquidità to cure. Mi sembrerebbe un po' strano, forse più sugli aumenti di capitale e sulle sofferenze bancarie. È ovvio, lo dico chi scrive, che se questo vale per l'Italia, vale anche per la Germania, vale anche per altri paesi, vale anche per la Spagna, vale anche per la Francia, non ha valore solo per l'Italia. Io ho la sensazione che la difficoltà di alcune banche, anche tedesche, abbia portato tutti a essere più prudenti e più saggi, no Alessandro? Io sono d'accordissimo, come dicevi tu prima, riepilogando quello che ha detto il Fondo Monetario Internazionale, che è un organismo neutrale, quindi non siamo per una volta noi italiani a dirlo, ma le banche tedesche hanno una serie di problemi che sono molto simili a quelli italiani per una certa fascia di banche, che stiamo parlando delle casse di risparmio. Il Fondo Monetario ha detto che c'è un'opacità nella governance, eccessivi rapporti con la politica locale. Noi l'abbiamo denunciato in più occasioni in Italia con i casi delle quattro banche salvate, anche Vicenza e Veneto. Certo. Vicenza, Veneto Banca. Dall'altro poi la Germania ha, come dicevi tu prima, il grande problema di Deutsche Bank, bocciata agli stress test della Fed, e con questa montagna di derivati non censiti dalla Banca Centrale Europea, che agli stress test ultimi ha detto: ci affidiamo alla valutazione interna che fate voi di Deutsche Bank. Allora, devo dire che ho sotto gli occhi un articolo, una paginata intera del Sole 24 Ore del 23 dicembre 2013, il cui titolo è "I salvataggi, tra virgolette, opachi delle sparcasse tedesche", a firma di Fabio Pavesi. Le oltre 400 piccole casse locali sono fuori dalla vigilanza europea e hanno beneficiato di miliardi di aiuti di Stato. E poi c'erano anche un'analisi di Nicola Borzi che diceva: Frau Merkel protegge i suoi dalla vigilanza targata BCE. La gran parte dei 230 miliardi stanziati dalla Merkel per salvare le banche tedesche sono finite nelle sparcasse. Io lo dico perché siamo stati, spero, abbastanza duri sia su Etruria, Chieti, Ferrara e Marche, che su Popolare di Vicenza e Veneto Banca, rivendicando anche di aver detto molte volte, quando c'era questa retorica sulle banche locali vicine al territorio, erano vicine ai poteri del territorio in molti casi, non al territorio, e si è visto come l'hanno trattato al territorio. Detto questo, voglio dire, attenzione, perché in Germania, che ne pensino i tedeschi di loro stessi, le cose funzionano nello stesso modo e delle volte anche peggio, Alessandro, perché il vincolo con la politica, pensate alla fortezza dei cristiano-democratici, che è la Bavaria, e i rapporti che ci sono tra le sparcasse locali e il partito CDU, insomma, quasi quasi danno lezioni anche a noi, Alessandro. No, in effetti è proprio così. E l'abilità tedesca è stata quella di, come dicevi prima, salvare queste banche con un'iniezione di capitale di aiuti pubblici quando ancora era possibile, prima che entrassero in vigore le nuove regole sui bail-in. Questo l'Italia non l'ha fatto nel 2013 e negli anni precedenti, e questo è probabilmente anche un nostro demerito da un certo punto di vista. Sì, poi c'è chi dice noi non abbiamo il debito tedesco, però qualcosa poteva essere fatto. Che cosa ti attendi adesso? È difficilissimo fare le previsioni quando tu hai pochi flash d'agenzia. Dicevo che ci potrebbe essere anche un giallo nel giallo, cioè, siccome l'agenzia recita che questa decisione l'ha presa domenica la Commissione Europea, lunedì abbiamo avuto i vertici, il Consiglio Europeo. E allora lo sapevano già Angela Merkel e Matteo Renzi sta cosa, per esempio? Sarebbe interessante sapere se Renzi era già al corrente di questo quando ha fatto la conferenza stampa che ieri. Quello che sapevamo è che nel corso del fine settimana c'erano stata una serie di contatti tra i capi di Stato per definire una strategia d'emergenza sulle banche europee dopo Brexit. No, poi perché nelle dichiarazioni pubbliche ieri Renzi e la Merkel hanno un po' duellato, ma appunto sul tema che non ci sarebbero state deroghe agli aiuti di Stato. Questa iniziativa di cui si sta parlando in questi minuti non sarebbe una deroga, perché è permessa dai trattati, in quanto si tratta di un caso eccezionale previsto già dalle regole. Dalle regole, quando ci sono elementi esterni. Ma come ha scritto anche Sole 24 Ore, cioè esistono previsti dei trattati elementi esterni, la Brexit, questo è, eccezionali, non prevedibili, che devono far sospendere alcune regole. Devo dire che se poi verremo a sapere che già Renzi e la Merkel lo sapevano, forse si capisce ancora di più il perché di una conferenza stampa di ieri di Matteo Renzi, molto molto prudente, calma, senza alzare lo scontro, dicendo non abbiamo mai chiesto aiuti. stiamo ragionando sulle ipotesi, ma è ovvio che se il Presidente del Consiglio già fosse stato a conoscenza di questo, è ovvio che fa una conferenza stampa morbida. Come sta emergendo in questi minuti, non si tratterebbe di un aiuto che l'Italia chiede, ma di un stop alle regole europee, che vale però per tutte le banche europee, per tutti i paesi europei. Cioè, il problema è generale, non è italiano. Esatto, beh, oggi la Germania... Ci sono strane coincidenze, eh? Esce il Fondo Monetario, esce la Federal Reserve, bastonano Deutsche Bank, la banca più a rischio dell'intero pianeta. Poi la Commissione Europea nel frattempo dice attenzione che i trattati prevedono che se c'è un elemento eccezionale gli stati possono garantire, possono dare liquidità a garanzia di operazioni bancarie. Insomma, sono tante coincidenze. Forse anche il silenzio di Renzi, silenzio no, ma insomma, quello che tutti ieri hanno visto come un essere molto molto di basso profilo sul tema delle banche, adesso acquisisce un'altra spiegazione. Staremo a vedere, vedremo se dall'Europa arriveranno maggiori dettagli. Il programma per oggi termina qui. Io ringrazio Alessandro Graziani, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Torna anche la poco invidiabile classifica di Focus Economia sugli sprechi della pubblica amministrazione. Radio 24. La passione si sente.